peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Buongiorno a tutti e benvenuti anche a questa Salt Peanuts che tornerà sul jazz italiano, che è una frontiera oramai molto prolifica che merita abbondantemente diverse trasmissioni di approfondimento. Oggi cominciamo dal sud, cominciamo da Ruvo di Puglio, che è una realtà molto importante che tra l'altro ha dato i natali anche a Giuseppe Minafra, più conosciuto nell'ambiente jazzistico come Pino Minafra, musicista, compositore, nonché suonatore di tromba e anche di filicorno, un personaggio poliedrico molto solare che ama per esempio anche improvvisazioni al kazoo o utilizzando il megafono in queste aree molto spesso anche un po' volutamente cialtronesche paesane, ma questo non gli ha impedito di suonare in festival come quelli di Wuppertal, Patrasso, Belgrado, militare nell'Italian Stable Orchestra, che è l'orchestra appunto di frontiera e di transizione che ha ospitato i maggiori musicisti italiani. E con lui hanno suonato Trovesi, Salis, Rava, Colombo, Michel Godard, quindi abbiamo anche Ernst Reisinger, figure di primo piano straniere, per non dire di Paul Rutherford, Kate Tippett, Molo o Cecil Taylor. Peraltro è anche un grande organizzatore di concerti, festival, a lui si deve la scelta artistica del Rocella Jazz Festival, che ogni anno e anche quest'anno è tra i più interessanti. Questo ci porta peraltro a questo album che presentiamo inizialmente in questa trasmissione di Salt Peanuts. E dunque di Pino Minafra ascoltiamo questo album che rivendica l'essere sud, infatti si chiama Minafriche, come Minafriche è il primo brano che ascoltiamo, che è un brano molto allegro, solare, più naturalmente favolistico. È questo brano che a seguire sarà Favola Fabis 2, un brano di Nicola Pisani. E l'orchestra di Minafra è ricca di personaggi, dimostrazione anche della credibilità di questo musicista del nostro sud, con Pino Minafra, la tromba, filicorno, la voce, anche il megafono, come si dicevo. Abbiamo altra tromba, nonché la tromba piccola, Vito Francesco Mitoli. Terza tromba Marco Sannini, poi comincia la sequela dei sax, quindi troviamo al contralto e al soprano e alla conduzione Roberto Ottaviano, soprano e contralto Gaetano Partipilo, tenore Carlo Axdato, gloria bolognese, al baritono anche la composizione e anche la conduzione Nicola Pisani. Il trombone è affidato a due musicisti, Beppe Caruso e Sebi Tramontana, quindi alla fisarmonica Giorgio Albanese, piano, tastiere varie e nonché sirene Livio Minafra, il figlio di Pino, basso sia elettrico che acustico Giorgio Vendola, batterie e percussioni Vincenzo Mazzone, Giuseppe Tria, poi abbiamo il trio Farwalla, la voce Gabriella Schiavone, Terry Valarella, Serena Fortebraccio e Maristella Schiavone, quindi una formazione allargata per una scorribanda di brani che vanno dall'area mediterranea fino all'area più bandistica. We'll be right back.

questa era Minafric, della grande orchestra di Pino Minafra, cornetista, animatore, musicista, compositore, in questa sorta di Liberation de Noaltri come grande orchestra, ma con grande vena di ironia e di autoironia. Dal padre da Pino andiamo a Livio, peraltro presente anche nell'album precedentemente presentato, Livio Minafra, classe 82, pianista, quindi dal babbo ha preso sicuramente l'amore per il jazz e l'ambiente jazzistico, dalla mamma clavicembalista l'amore per le tastiere. E sulle tastiere Livio si dimostra notevole, importante, con una grande ispirazione. Tant'è che si accinge, lo presentiamo, ha un album piano solo, che è una cosa estremamente complessa perché mette nudo chiaramente le possibilità inventive di destare e tenere destra l'attenzione di chi ascolta. Questo sono due dischi, uno è Luna, l'altro è Sole, dunque naturalmente uno solare, l'altro molto più intimista e selenito. E quindi abbiamo in un disco arie allegre, in quell'altro arie più meditate. Cominciamo allora con la parte della Luna, con due composizioni che appunto hanno un sapore che va tra una sorta di Jarrett, ma anche Rixatie, ma anche aria meridionale, insomma è un qualcosa di immaginifico che porta un momento di tenerezza, di introspezione e anche di racconto. Thank you. Questa è la tastiera di Livio Minafra, prima in mare e poi in clown, con aria già più un po' alla rota. Chi ricorda in qualche modo che dal suo babbo ha preso una sorta di vena creativa il giovane Minafra? Ma è un personaggio che poi, per esempio, è girato recentemente anche al Festival di Ravenna, in due con Luis Molo, batterista, legato a una certa epopea free, e che Minafra, con le sue arie al pianoforte, in qualche modo identifica anche in temi più riconoscibili. Ma veniamo all'altro disco di questo album, Sole e Luna. Luna l'abbiamo già ascoltata, veniamo al Sole, quindi arie più allegre, arie più solari, che in qualche modo fanno contraltare appunto con l'altro CD. Ascoltiamo. Thank you. Biafra, nella parte allegra, nella parte del sole di questo doppio disco. Hans & Misha, il primo album, Er Huracan, il secondo, più messicaneggiante evidentemente, questo figlio d'arte che ha dato ottima prova di sé al pianoforte. Altro disco di fatto piano solo, questa volta etichetta ECM, è quella di Glauco Venier, classe 62, personaggio che ha un curriculum abbastanza cattedratico, perché si è diplomato in organo presso il conservatorio Jacopo Tornadini di Udine, poi in realtà è andato alla corte di uno dei grandi vecchi del jazz italiano, Franco D'Andrea, poi a poco si è fatto notare proprio per la sua capacità descrittiva, narrativa di una tastiera molto così romantica, molto ispirata. La collaborazione forse più vistosa è quella con Norma Whiston o col sassofono di Klaus Gesing, che è un po' questo seguace John Sarman austriaco. Quindi in particolare una prestigiosa collaborazione fu quella al tempo di Lee Konitz con L'idea di marzo, un album che insomma è molto caro a Glauco Venier. Qui ci si presenta invece in un album miniature dove lui appunto per etichette CM è per piano solo e si accompagna anche con dell'atmosfera legata a qualche gong e campana, ma sono cose sottofondo in cui primeggia evidentemente la tastiera, molto lontano da certi utilizzi radicali delle percussioni. Qui siamo in un ambiente molto ambiente CM, molto rarefatto, ma devo dire anche molto incisivo. Di questo album sentiamo due proposte proprio dalla tastiera di Glauco Venier. Glauco Venier, siamo nel Friuli, questo pianista che ci ha presentato in sequenza questa pittura di Tiziano, Tiziano's Painting, e poi a seguire questa prayer, questa preghiera, quindi molto, diciamo, ispirati, molto lirico. Torniamo al sud, torniamo a questo musicista cosentino, da oltre 10 anni in attività, lui è Alberto Laneve, che ci presenta questo album, Nemesi, della Manitou Records, un album molto impegnativo perché è tutto per sax e sovraincisioni, quindi ancora una volta, un po' come il piano solo, la scommessa è alta, quello mantenere sempre una tensione senza mai cadere nel solipsismo, e la Neve affronta questa sfida con un racconto di fatto, con delle arie fascinose, evocative, che in qualche modo cercano di strappare il lettore, l'ascoltatore, dalla sua seggiola per trasportarlo in un universo di note. Class 81, dicevamo, questo disco non a caso poi è della stessa giro ambiente che vedeva anche l'ambiente Minafra, perché le stesse note di copertine sono legate a Nicola Pisani, oltre che Paolo Iannarella, quindi l'ambiente è quello di Rocelle, quello di Ruvo o della Puglia. È un'opera, questa Nemesi, complessa, legata ad un filo narrativo un po' onirico, ma godibile, anche se devo dire in certi passaggi impegnativa. Ascoltiamo. Thank you.

Due brani di Alberto Laneve per questi sassofoni con le sue sovraincisioni, un po' come John Sarman, appunto come traccia, come grande battistrada all'inizio degli anni 70, una formula che poi si è più volte rinnovata. Alberto Laneve in qualche modo chiude con questi due brani il primo Orpheus, che è dedicato al grande mito dell'amore che non può essere guardato in volto, e poi a un secondo brano Messie Malossène, naturalmente dedicato al personaggio di Pennac. Ed era anche appunto l'ultimo disco presentato da questo Salpinos, tutto dedicato a produzioni italiane, che vi saluta a questo punto, vi dà appuntamento la settimana prossima. Ciao a tutti! Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Sal Peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.